cambia tutto in questo mondo, figuriamoci se non cambiano i rapporti fra i piaceri e i doveri. Quel che fino a qualche anno fa era un piacere, grazie ad un lento ma inesorabile lavoro al corpo, può finire a far parte dei doveri, ahimè. Ciascuno di noi, per esempio, ha vissuto almeno un'epoca della sua vita in cui ha avuto a che fare con la merenda. Oliva, anche tu avrai fatto merenda. Merenda io? Mai. Pane, cioccolata, cioccolata senza pane, pane senza cioccolata. Cioccolata? Giammai. Marmellate, biscotti. Marmellata con tutto lo zucchero che contiene. Biscotti, focaccine salate, confezioni ideate appositamente perché... Carboidrati. Le mamme non perdessero tempo nel preparare, c'è stato anche poi questo tempo qua. Ci fu un'epoca, insomma, della mia vita, tra l'altro, in cui io scandalizzai non poco i miei nonni perché per merenda... Qui ti voglio, Oliva, agognavo soltanto capperi sott'aceto. Ecco, vabbè, ma non ho nessuna questa è una buona merenda. Non è male, ma non ho nessuna intenzione di investigarne il perché. Vegetale, senza colesterolo. Io mi scampi il saperne il perché. Etimologia alla mano, questa merenda, dal latino merere, meritare, significa qualcosa da meritarsi. Da qui la storia dei bambini buoni, cui per placare loro la fame pomeridiana viene concesso, quando proprio sono buoni, quando sono stati proprio buoni, viene concesso qualcosina da mangiare, e per l'appunto la merenda, che se buoni non lo sono, non è merenda affatto, sono calci nel sedere per il loro stesso bene, legnate, stanzini bui. Almeno un tempo. Anche se anche calci nel sedere sarebbero meritati, per cui... Sarebbero il corrispettivo della merenda. Oggi di invece ti dirò che circola uno spot televisivo che decanta le lodi di una merce, che non sono stato a memorizzare quale, le lodi di una merce che nutre come una merenda e piace come un gelato. Siamo alla contraddizione in termini. La merenda è diventata un dovere cui adempiere perché è inserita surrettiziamente nella necessaria categoria dei nutrimenti che in quanto tale ovviamente non hanno diritto di piacere. Viviamo allora in una società che produce a getto continuo nefandezze del genere. Il merito è diventato di default, attribuito di principio, un diritto acquisito prima di fare alcunché, e il piacere può nascere solo dal contrapporvisi. Non stupisce che la convivenza cominci a farsi davvero difficile.